In una intervista di una decina di giorni fa, il senatore Pellegrino, nella sua qualità di presidente di una istituzione che di per sé spiega il succo della vita democratica del nostro paese, ecco, ovvero presidente della commissione stragi, diceva qualcosa intorno alla vicenda del generale Delfino, quel generale dei carabinieri che prima di essere arrestato per concussione era stato anche addirittura in odor di vertici dei nostri servizi segreti. Fra l'altro Pellegrino diceva che il generale Delfino, dati i suoi trascorsi, dato il fatto che in passato si era occupato di tanti fatti gravissimi, come quello per esempio della bomba in Piazza della Loggia a Brescia, questo generale avrebbe potuto riscrivere la storia d'Italia. Il che è un po' come dirci che l'attuale storia del nostro paese, quella che conosciamo tutti, è incredibile e certamente falsa. Nei giorni successivi, il generale Delfino, dichiarandosi innocente, assicurando il mondo intero che da questa vicenda sarebbe uscito a testa alta, ha spiegato come erano andate le cose. Sui giornali, dove cioè al giorno d'oggi vengono celebrati i processi, anticipando e indirizzando il lento e contorto corso della vecchia cara giustizia ordinaria, sui giornali, dicevo, ha cominciato a circolare l'opinione dei suoi avvocati, secondo la quale il generale era sicuramente innocente proprio a causa dell'alto numero di indizi che lo indicherebbero come colpevole. Un reo appena appena rispettabile in quanto reo non può disseminare il proprio cammino di prove a carico con questa pertinacia, e siccome dell'intelligenza del generale nessuno può dubitare, va da sé che è innocente come l'acqua. È un'argomentazione che va molto, si pasce essenzialmente del principio che l'assassino non può mai essere il maggiordomo, soprattutto se viene trovato seduto sul cadavere ancora caldo e con una pistola fumante in una mano e la chiave della cassaforte nell'altra. Non fidando del tutto nell'efficacia giudiziaria di tale argomentazione, giorno per giorno poi sono state fatte circolare ipotesi alternative. Una, per esempio, considerava il generale che, impegnato nelle indagini e preoccupato com'era della vita dell'ostaggio, da mesi in mano ai rapitori, si incontrava con l'amico della famiglia Soffiantini, con cui, forse in cerca, che so, di un po' di relax, giocava a carte, a soldi, fino a vincergli 800 milioni che, guarda caso, l'emissario pagava con soldi proprio dei Soffiantini. Una seconda ipotesi alternativa fatta circolare in seconda battuta, invece, prevedeva che in quei tragici giorni l'amico di famiglia si facesse consegnare 1 miliardo tondo tondo dei Soffiantini e, detratti 200 milioni per le sigarette, corresse a comprarsi una villa, quale villa fra tutte le ville in circolazione? Ovviamente quella del generale Delfino, versandogli immediatamente 800 milioni. A quanto poi si è detto, queste storie non hanno trovato ascoltatori compiacenti. Può darsi che il generale Delfino, come dice il senatore Pellegrino, potrebbe riscrivere la storia d'Italia, ma a giudicare da come sta scrivendo e riscrivendo la propria di storia, c'è da dubitare che il risultato possa essere di molto migliore dei risultati precedentemente ottenuti. Se quella nostra storia, che oggi ci appare incredibile, insostenibile, patentemente falsa, è così e non altrimenti, per l'appunto perché è già stata scritta da persone come il generale Delfino.